offrirò una serata strana. Il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky. Sarò grande, vedrai. Fammi spazio e dopo mi dirai. Che maschio sei? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Difficile farlo con te, mollalo! Lui chi è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto ma è certo di troppo, mollalo! Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami, dai, l'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia lui. Non è il mio tipo. Ci proverò, la geometria non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un po' articolato. Mentre io rischierei, ma il triangolo io lo rifarei, perché no, lo rifarei. Ma loro, chi sono?